Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Non ci sono impianti eolici offshore, cioè in mare, in Italia, e per la verità un po' in tutto il mondo l'offshore è una quota esigua dell'eolico, essendo sicuramente molto costoso e spesso considerato troppo impattante sul paesaggio, sull'ambiente. I progetti presentati in Puglia, che è la regione con più vento lungo le coste, sono stati respinti tutti tranne uno, che però è sperimentale, quindi non verrà costruito tanto presto. Ora è Rimini invece ad affrontare la discussione. Se ne è parlato ieri ad Ecomondo, la fiera della sostenibilità, dove ho incontrato Alberto Rossini, che è direttore dell'Agenzia per l'Energia della provincia di Rimini, al termine di un convegno nel quale sono stati comunicati i dati relativi al vento dopo una campagna anemometrica durata 2 anni. Che cosa è venuto fuori? Sentiamo. È venuto fuori che c'è un potenziale di vento che potrebbe, come dire, sostenere delle pale eoliche offshore nell'Adriatico di fronte alle nostre coste. Però per questioni, diciamo, in parte tecniche, cioè il tipo di anemometro che ha misurato il vento, in parte perché i dati sono contrastanti, abbiamo delle punte che superano gli 8 metri al secondo, delle punte inferiori, abbiamo deciso di, insieme ad Eni che ci ospita sulle proprie piattaforme, di continuare una campagna di approfondimento dei dati, quindi di misurazione. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo insieme a una società che ha investito per comprare e dare alla provincia un nuovo anemometro molto più potente, molto più sofisticato, e vogliamo capire se ci sono le condizioni di fattibilità, prima di tutto quindi la caratteristica del vento, la densità, la durata, se ci sono le famose 1800 ore che sono quelle che sono un po' il minimo sindacale, per la verità, 1800 ore sono, vero? Quelle il minimo per dire che esiste la bancabilità, insomma un progetto di fattibilità. Dunque diciamo qualcosa su questo nuovo anemometro. Intanto misurerà il vento fino a 200 metri di altezza, che sono altezze alle quali le grandi pale eoliche arrivano. Sì, può arrivare fino a 200 metri di altezza misurando 10 altezze diverse. Lo abbiamo tarato a 120 metri, ovviamente per non avere dei ciclopi in mare. Ci fornirà i dati attraverso una scheda, insomma un modem, chiamiamolo così, che trasmette in tempo reale, quindi avremo il polso della situazione. Dopodiché decideremo tra Eni, noi e privati che cosa fare di questi dati e come procedere in termini autorizzativi, e qui viene una delle parti più difficili e complesse. Ed è un anemometro che funziona con la tecnologia laser, che tra l'altro è una tecnologia che viene utilizzata oggi addirittura per vedere i groppi di vento in arrivo prima che arrivino. È insomma una tecnologia appunto molto evoluta. Vediamo al rapporto col territorio, perché l'eolico in generale non trova grande accoglienza spesso sul territorio, rovina il paesaggio, questo è spesso l'obiezione. Poi a volte ci possono essere altri problemi, se per esempio bisogna costruire le pale eoliche in un parco marino si va a toccare il fondale, oppure in zone dove ci sono rotte di migrazione degli uccelli. Ecco, a Rimini qual è la situazione? Bisogna partire dai dati reali. Rimini è un territorio che è stato molto urbanizzato e molto sfruttato dal punto di vista dell'impatto territoriale. Allora, la situazione deve evolvere verso una maggiore sostenibilità e la provincia di Rimini è da tempo impegnata su questo. Produrre energia usando le rinnovabili è un obiettivo che come provincia ci siamo dati insieme ai comuni. Pensiamo che anche dal punto di vista paesaggistico è preferibile un impianto eolico in mare, offshore o eventualmente onshore, piuttosto che impattare sull'Appennino, sulle colline insomma del nostro territorio. E poi sulla costa ci sono molte piattaforme dell'Eni. Questo da un lato vuol dire che è una costa già intaccata, dall'altro c'è la possibilità di una semplificazione anche nelle procedure autorizzative, vero? Sì, abbiamo molte piattaforme Eni che estraggono gas, molte di queste piattaforme sono in fase di fine, diciamo, di estrazione del gas, quindi va ripensato il loro utilizzo o la loro dismissione con problemi economici da non sottovalutare. Noi potremmo usare queste piattaforme, Eni e Ministero delle Infrastrutture e dell'Ambiente permettendo, almeno come piattaforme di servizio rispetto alle pale o alle turbine eoliche, quindi creare anche una sorta di parco non solo tecnologico ma anche marino, di biologia marina visitabile, in cui, come dire, sposiamo la sostenibilità, la tecnologia, un impatto ambientale non disastroso per i nostri comuni, per la nostra costa. E sempre ieri ad Ecomondo, con una conferenza stampa congiunta, i ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente hanno annunciato lo schema di decreto per le rinnovabili termiche da lungo tempo atteso. Sentiamo a proposito il ministro Clini. Abbiamo previsto uno stanziamento fino a 700 milioni all'anno per incentivare la realizzazione di impianti nel settore domestico familiare. Si tratta di impianti di piccole e medie dimensioni. Il contributo coprirà fino al 40% del costo di investimento. La nostra stima è che il resto dell'investimento sarà coperto nell'arco di 2-3 anni dal risparmio sulla bolletta del gas, cioè man mano che tu hai produzione di calore da fonte rinnovabile riduci il consumo corrispondente di gas e perciò è un risparmio. L'altra forma incentivante è destinata alle piccole e medie imprese, che è analoga a questa, e poi una quota invece di finanziamenti fino a 200 milioni è destinata alle pubbliche amministrazioni, che avranno così la possibilità di investire per migliorare e modernizzare gli impianti. Per chi ci sarà invece un conto dell'energia prodotta e in funzione di questo verranno concessi incentivi? C'è una categoria di produzione che rientra in questa casistica? No, ci siamo mossi in maniera tale da rendere molto più semplice il meccanismo di finanziamento, perché altrimenti il sistema di controllo sarebbe diventato troppo complicato, per cui è una modalità di incentivazione molto semplice. Bene, quindi parliamo di un 40% di contributo statale sul costo di acquisto di un impianto solare termico oppure di una pompa di calore o un combustore a biomassa. Questo contributo verrà erogato in 2 anni, a differenza delle detrazioni fiscali del 55% che permangono ma sono spalmate su 10 anni. Il cittadino potrà scegliere. Ne parleremo più approfonditamente settimana prossima. Per ora ci fermiamo qui. Appuntamento a lunedì. Buon fine settimana.